L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, cominciamo subito il racconto delle notizie più importanti dell'ultima settimana. I nostri confini temporali sono sabato scorso 5 dicembre e venerdì ieri 11 dicembre, mentre gli strumenti del nostro racconto sono i soliti, i servizi già andati in onda nei GR di Radio 24 più le voci di alcuni ospiti. Primo punto nella nostra scaletta è la politica. Non sarò originale, me ne scuso, ma ancora una volta ci sono tante cose da raccontare, tante cose che sono successe, tante polemiche, tanti veleni sulla scena italiana. Tutti i figli, l'ho detto anche tante altre volte in compagnia anche dei vari ospiti che si sono avvicendati qui all'ottavo giorno, della bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta ormai un paio di mesi fa. Procediamo subito allora in ordine cronologico, perché sabato, il giorno dopo le dichiarazioni del pentito Spatuzza che lancia accuse pesanti e precise all'indirizzo di Dell'Utri e Berlusconi, ci sono due arresti di mafia per la maggioranza e la prova che Berlusconi e il governo stanno lavorando, sono impegnati più che mai nella lotta alla mafia, mentre per i detrattori la coincidenza tra le dichiarazioni di Spatuzza e questi arresti è molto strana. Noi evitiamo la dietrologia, ci limitiamo invece alla cronaca con questo servizio di Cristina Balotelli. Due arresti eccellenti da un capo all'altro dell'Italia. A Milano uno dei boss storici appartenenti alla lista dei 30 ricercati per mafia più pericolosi, Gaetano Fidanzati, 75 anni. A Palermo un 28enne latitante da 3 anni, considerato il numero 3 di Cosa Nostra palermitana, Gianni Nicchi. Ai nostri microfoni il direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Gilberto Caldarozzi. Siamo arrivati con attività investigativa di ordine tradizionale, quindi servizi di osservazione, di pedinamento, attività tecniche e quant'altro. Sono due personaggi di grande spessore, ambedue sono ricercati per associazione mafiosa ed estorsione. Fidanzati è stato arrestato dagli agenti della mobile in via Marghera a Milano mentre era in compagnia del cognato. Era lui che faceva entrare fiumi di cocaina nel capoluogo lombardo. Nicchi si nascondeva in un appartamento di via Juvara a Palermo, a poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia. Nelle stesse ore va in scena a Roma la manifestazione del No B-Day, apertamente anti-Berlusconi, e tra l'altro c'è qualche francese che vorrebbe importare il format e dedicarlo così, ironicamente, a Sarkozy. Per le vie di Roma a seguire la manifestazione c'era Maria Chiara Grandis. Tanti, siamo tanti, e tanti, tanti giovani. Sono arrivati da tutta Italia per partecipare al No B-Day, l'appuntamento in Piazza della Repubblica nel primo pomeriggio, poi tutti in corteo. La comunità del web si è ritrovata a Roma con un solo obiettivo, chiedere le dimissioni del Premier. Qualsiasi cosa è meglio di Berlusconi. E anche se noi siamo pensionati, anziani, lo facciamo per i nostri ragazzi. Signore anziane con cappotti viola, ragazzi con maschere viola che raffigurano il volto del Presidente del Consiglio Berlusconi, mamme, papà, bambini e palloncini viola, a dimostrare che in piazza, al di là dei partiti, i protagonisti sono loro. Significa cambiamento, significa libertà. Viola contro chi viola. Un popolo di tutte le età ed estrazioni, operai, professori, studenti, impiegati. Il sole è al tramonto quando raggiungono Piazza San Giovanni, dove la manifestazione si conclude fra artisti e intellettuali. C'è Nanni Moretti, Dario Fo, Franca Rame. Un avviso, attenti se non ci avete mai calcolati. Noi veniamo dal nulla per voi, ma esistiamo e siamo pesanti. È buio quando gli organizzatori prendono la parola. Siamo 1,5 milioni, annunciano, e la piazza esulta. Dal palco, poi, chiedono al popolo viola di non perdersi di vista. Come dicevo prima, lo snodo fondamentale in questo momento della politica italiana è la giustizia, tenendo conto che poi l'anno prossimo si vota per le regionali. E c'è tutta una serie di leggi che la maggioranza ha una certa fretta di chiudere in Parlamento. Questo è il quadro della situazione aggiornato a mercoledì mattina con Raffaella Calandra. Prima il legittimo impedimento, poi il processo breve con il lodo Alfano bis sempre sullo sfondo. In questo scorcio di anno la maggioranza preme sull'acceleratore della giustizia. Inizia oggi in commissione il dibattito sulla proposta di legge che rinvia i processi fino a 6 mesi per chi ricopre ruoli politici. L'intenzione è di portarla presto in aula, dove lo scontro è assicurato, vista l'applicazione anche ai processi di Berlusconi. Già questa sera invece, nella riunione della Consulta del PDL, si discuterà degli emendamenti al processo breve, polemiche smentite intorno all'ipotesi di inserire i reati di mafia, mentre alla fine dovrebbero invece farne parte quelli sull'immigrazione, da sempre contrario alla loro esclusione, Piero Longo, deputato e difensore del Premier. Mi pare molto demagogico, qualcuno potrebbe dire dovete fissare un termine anche per i processi di mafia, invece di fare 2 anni si possono mettere 8 più 4, 12. Quindi un tetto massimo di durata anche per i reati di mafia e di associazione? Qualcuno può avere questa idea, se ne discuterà, si guarderanno le statistiche di quanto durano i processi. L'ottavo giorno. Ce n'è molta di politica italiana in questa puntata dell'ottavo giorno, le cronache pervadono poi lungo e largo in questi giorni, i telegiornali, i giornali, la nostra radio naturalmente. Ieri per esempio c'è stata la deposizione di Filippo Graviano, che di fatto ha smentito il pentito Spatuzza dicendo di non aver mai conosciuto Dell'Utri. A questo punto toccherà ai magistrati stabilire chi dei due dice il vero, perché le due dichiarazioni sono completamente agli opposti. Giovedì invece, tanto per fare un po' di rapidissima cronaca di quello di importante che è successo in questi giorni che non riusciamo poi a commentare attraverso un servizio, la Camera ha respinto sia la richiesta di arresto sia le dimissioni da sottosegretario all'economia di Nicola Cosentino, però il caso rimane comunque aperto e spinoso. E sempre giovedì da Bonn Berlusconi ha lanciato un suo nuovo affondo, il refrain ormai è quello classico, si è scagliato su temi a lui cari ma anche che lo preoccupano come la giustizia, la Consulta, ci sono stati riferimenti diretti e indiretti più o meno espliciti a Fini e a Napolitano. Ascoltiamo Vincenzo Miglietta. Attacca la magistratura, annuncia di voler cambiare la Costituzione, punta il dito sul Quirinale e ribadisce la compattezza della maggioranza. Davanti alla platea del Partito Popolare Europeo, il presidente del Consiglio Berlusconi torna sulla politica italiana e spiega: il Parlamento fa le leggi, ma se non piacciono al partito dei giudici, questo si rivolge alla Corte Costituzionale. Da organo di garanzia, la Corte Costituzionale si è trasformata in un organo politico e abroga le leggi fatte dal Parlamento. Quindi la sovranità oggi in Italia, non credo di dire una cosa eccessiva, è passata dal Parlamento al partito dei giudici. Sulla composizione della Consulta Berlusconi non si tira indietro e dice: i 5 componenti di nomina dei presidenti della Repubblica sono tutti di sinistra, in quanto abbiamo avuto purtroppo 3 presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra. Stiamo lavorando, annuncia il Premier, per cambiare questa situazione anche attraverso una riforma della Costituzione. Pronta la replica del Quirinale, Napolitano parla di rammarico e preoccupazione per quanto detto a Bonn, definisce quindi le frasi di Berlusconi sulla Consulta un violento attacco contro le fondamentali istituzioni di garanzia. Prende le distanze dal Presidente del Consiglio anche Fini. Non condivido, chiarisca su giudice e Consulta, dice il Presidente della Camera. Non c'è niente da chiarire, sono stanco delle ipocrisie, replica lo stesso Berlusconi. Il portavoce Bonaiuti precisa: sulla Corte Costituzionale il Presidente Berlusconi non ha detto nient'altro che la verità. Anche ieri Berlusconi è tornato nuovamente all'attacco con nuove esternazioni da Bruxelles in questo caso, però adesso ci fermiamo perché ci vogliamo concentrare su un'altra polemica, non so quanto inedita, che ha tenuto banco soprattutto nei primi giorni della settimana. E per parlarne mi farà compagnia in questi minuti Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Allora, la polemica scatta di fatto lunedì sulla prima pagina della Padania, il giornale della Lega, e coinvolge la Lega da un lato e il cardinale Tettamanzi, il cardinale di Milano. Sentiamo i dettagli di quello che è successo in questo servizio di Andrea Viali. L'opposizione, ma anche buona parte della maggioranza, hanno reagito con un coro di critiche agli attacchi della Lega all'arcivescovo di Milano Tettamanzi, accusato di essere troppo vicino alle ragioni degli immigrati. Ad intervenire con una battuta sulle polemiche sollevate dalle ultime uscite del Carroccio, come quella sul presepe, ieri è stato anche il presidente della Camera, Fini. Se uno guarda il presepe, magari si dovrebbe rendere conto che già il presepe è pieno di extracomunitari, a partire dai magi, insomma, no? Fini ha anche ribadito le sue perplessità sul processo breve. È inammissibile che il reato di immigrazione sia escluso da quelli ai quali si applicherà la legge, ha detto il presidente della Camera. Per riportare al centro del confronto politico la questione della cittadinanza agli stranieri che lavorano in Italia, Fini ieri ha anche siglato un patto col presidente della Commissione Antimafia, Pisanu, e con il leader dell'UDC, Casini, anche lui molto critico nei confronti della Lega per gli attacchi a Tettamanzi. Gli attacchi a Tettamanzi sono rivelatori di un degrado morale e politico. Si difende il presepe, ma anche Gesù era uno straniero, forse un extracomunitario dell'epoca. Allora, Casini ricorda che Gesù era un extracomunitario, tra l'altro è stato anche pochi giorni fa Papa Ratzinger a ricordare la figura di Gesù come migrante, il primo migrante o uno dei più famosi, insomma il più celebre della storia. Ma torniamo alla Lega, che mi sembra insomma che in questa polemica, che poi è rientrata nei giorni successivi, Bossi subito ha cercato di fare da pompieri, ha spinto Calderoli un po' a rimediare alle sue parole, però dicevo la Lega si muove soprattutto, a mio giudizio, ma a giudizio praticamente di tutti, pensando al voto regionale dell'anno prossimo. Tu Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore, come vedi questa diatriba tra Tettamanzi e Calderoli? Allora, innanzitutto la Lega è stata molto abile a tirare fuori questa polemica il giorno di Sant'Ambrogio, proprio con un timing perfetto, in quanto il giorno è la festa annuale della città di Milano. La Lega si comporta su questo fronte con la Chiesa e con il sociale da sempre come forza di lotta e di governo. Molto abile, certo con l'occhio naturalmente al voto regionale, ha attaccato il cardinale di Milano, lo fece anche col precedente cardinale Martini, entrambi considerati nella Chiesa come progressisti. La Lega si è inserita in questa polemica pensando anche di inserirsi bene in una dialettica anche interna alla Chiesa, dove c'è una linea, quella romana, quella della Curia, del governo centrale, molto più realista nella politica, nei confronti soprattutto della politica italiana, di intesa, di accordo, di mai alzare i toni, mentre sul territorio i prelati, i vescovi sono spesso più con posizioni molto più forti, specie per esempio sui temi caldi della Chiesa come l'immigrazione. Sulla vita, sulla famiglia sono tutti d'accordo, sull'immigrazione non sempre. E sappiamo quindi che il cardinale di Milano, naturalmente, in una città piena di immigrati, come Milano, naturalmente parla dei bisognosi, di quelli che hanno più difficoltà. Questa è storia della Chiesa, non è da oggi che così fa la Chiesa. Naturalmente non è che il cardinale di Milano si mette a parlare dei problemi di quelli che abitano nel centro, che sono dei problemi di parcheggio o sciocchezze di questo tipo, nel senso parla dei problemi seri, per cui è chiaro che la Lega su questo si inserisce. Ma a tuo giudizio la polemica è rientrata, e soprattutto come giudichiamo l'uscita di Calderoli nei confronti di Tettamanzi nell'ambito più generale di quelli che sono i rapporti attuali tra la Lega e appunto la Curia Romana, il Vaticano? Ricordiamo per esempio che nel periodo in cui c'era il massimo del distacco, del gelo, diciamo, tra Berlusconi e il Vaticano, quando c'era di mezzo il caso Boffo e tutta la vicenda delle escort, addirittura Bossi invece incontrava Bagnasco, Bertone, quindi insomma frequentava sempre cardinali di un certo, certo, peso. Ma è perché lo fece proprio per ricucire, siccome ci ricorderemo anche sempre Calderoli aveva attaccato duramente la Chiesa sul pacchetto sicurezza e attaccava particolarmente il capo del dicastero per i migranti. E dopo queste polemiche feroci, era a fine agosto, poi si vide prima con Bagnasco e poi cardinale Bagnasco e poi col cardinale Bertone, proprio per avviare un dialogo istituzionale che fino a quel momento era avvenuto poco più che sui giornali. Non a caso proprio ieri l'altro, il cardinale Bertone, capo del governo della Chiesa, quindi proprio il massimo rappresentante, primo ministro del Papa, ha detto la Lega è un partito importante perché sta sul territorio, esattamente come facevamo noi un tempo, noi Chiesa, con i parroci e vescovi. La Lega prende voti cattolici. Assolutamente, no, ma la Lega è il modello politico a cui la Chiesa guarda come presenza sul territorio, perché sappiamo che i partiti che in Italia oggi governano, la destra naturalmente non è più, a parte i residui di ex AN, non c'è più sul territorio, Forza Italia non c'è mai stata, il Partito Democratico ha difficoltà serie a tenere sul territorio, solo in qualche regione, cioè, quindi è chiaro che la Lega è un modello di presenza sul territorio. Poi, credo di non sbagliarmi se aggiungo che la Lega naturalmente guarda alla Chiesa perché la interpreta come un baluardo Della cristianità islamico, insomma, difesa delle leggi. Ma difatti proprio questo la Lega uso strumentale anche in questo caso, ma molto parte, strumentale la Lega, come dice, fanno tutti a destra e a sinistra. Sì, però insomma la Lega su questo diciamo che batte molti, che vorrebbe mettere la croce sulla bandiera italiana, tutte queste cose qua. Naturalmente la Chiesa, ora l'hanno detto anche altri politici, quindi non voglio dire che sposo alcune tesi, però la Chiesa è universale, non è che è occidentale, non è la Chiesa italiana, la Chiesa in senso come valore cattolico, la Chiesa cattolica è un valore universale per chi ci crede, per cui è inutile poi metterla a difesa di... Sì, poi c'è chi dice c'è stata Lepanto, ma era il 500, qualche anno un po' di passato. Tempo è passato. Per chiudere il nostro ragionamento, io vorrei con te, proprio nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, ricordare invece la Lega delle origini, quindi torniamo indietro almeno di 20 anni, la Lega d'antan di battaglia, che insomma era forse un po' più laica, un po' meno interessata Era anticlericale, parliamo col suo nome. Cioè, nel senso senso che la Roma ladrona dei suoi slogan coinvolgeva ladrona. Anche il Vaticano. No, era soprattutto il Vaticano, ma la cosa curiosa perché poi la Lega, ripeto, è fatta di politici molto abili, a volte sembrano un po', come dire, broccioni, ma sono bravissimi. Bossi, Maroni, Calderoni sono sempre Borghezio, all'epoca fu Borghezio, insomma, quello più, diciamo così, spesso più acceso, che andò proprio a fare una manifestazione sotto la curia di Milano, arcivescovato, in Piazza del Duomo, contro l'arrivo dei Tettamanzi, proprio inneggiando. Ah, voi qui. Quando, insomma, così vedeva la curia romana come un tutt'uno col potere politico. Oggi invece c'è questa cosa curiosa che attacca il vescovo di Milano, quindi nel cuore, diciamo così, del nord, e che peraltro è milanese, Tettamanzi non è un meridionale trasferito a Milano, cioè, non è un emigrante, e in qualche modo dice no, invece la curia romana sono più bravi. Quindi è chiaro che poi un partito di lotta di governo, in questo va detto, hanno pochi uguali in Italia. Quindi a tuo giudizio mantiene intatte le due anime, pro o contro la Chiesa, sì, o prevale, sì, sì, quella più allineata con... di alleanza, diciamo, con la Chiesa? Ci sono sempre di due livelli: il livello politico alto, dove ci prevale la realpolitik, e il livello base, dove a volte ci sono delle distonie. Chiaro che se un parroco accoglie gli immigrati nella parrocchia, magari in Brianza qualcuno avrà da ridire, non lo so, può darsi, ma insomma, diciamo così. Poi bisogna distinguere sempre da quello che dicono i politici a quello che poi la gente, che poi la gente nel quotidiano, secondo me, è molto meglio di quello di come viene rappresentata nei telegiornali. Benissimo, grazie a Carlo Marroni, collega grazie del Vaticanista, soprattutto del Sole 24 Ore. Adesso un'altra virata brusca, ma dobbiamo farlo perché il tempo è poco, perché la politica in questi giorni si è anche concentrata sulla finanziaria, che è in discussione alla Camera, e anche qui non sono mancate tensioni e polemiche. Sentiamo allora in rapida successione prima Vincenzo Miglietta e poi il commento di Nuno Pesole nei GR di giovedì mattina. Governo e maggioranza fanno quadrato intorno al testo della finanziaria approvato dalla Commissione Bilancio e da ieri in aula alla Camera. Il provvedimento va bene così, ribadisce dal PDL il relatore Corsaro, mentre il ministro dell'economia Tremonti chiude di fatto per il momento all'opposizione, che auspica invece che sulla manovra non venga posta la fiducia. Se c'è stato non ostruzionismo ma discussione in Commissione Bilancio, è vero ed è positivo. E credo che ora siamo qui non per discutere sul metodo ma per avviare la discussione d'aula. Grazie. Dal Partito Democratico tuttavia Bersani dice: siamo in una condizione deprimente per il Parlamento. Sui contenuti poi il leader PD aggiunge: tutta la finanziaria è costruita su entrate, diciamo, una tantum straordinarie, che finanziano invece che investimenti spesa corrente. Altro capitolo, l'utilizzo del TFR detenuto dall'INPS per coprire parte della manovra economica. Alle critiche dei sindacati replica il ministro del welfare Sacconi, che parla di polemica infondata perché le erogazioni ai lavoratori, spiega, sono assolutamente garantite. Giunta alla Camera in versione leggera, 3,4 miliardi e poche misure sostanziali, la finanziaria, che da ieri ha avviato il suo iter in aula, è un testo decisamente più ponderoso, con i suoi 250 commi e i 9 miliardi di risorse complessive messe in campo. È una finanziaria però che fotografa gli scarsi margini di manovra a disposizione. Lo conferma il fatto che le uniche risorse provengono dagli incassi dello scudo fiscale, che sono una tantum, e dall'utilizzo da parte del Tesoro di 3 miliardi del TFR, in pratica un anticipo che poi dovrà essere comunque compensato con interventi successivi. Non resta che prenderne atto e concentrare l'attenzione su quel che potrà essere fatto nei prossimi mesi. Un primo intervento sull'IRAP, misure di sostegno per le famiglie a basso reddito, la cedolare secca del 20% sui redditi da locazione potrebbero essere tre misure da varare entro la metà del 2010 per sostenere i segnali di ripresa che sembrano consolidarsi. Le risorse potrebbero essere individuate dai risparmi attesi dal controllo di quei rivoli di spesa improduttiva che tuttora appesantiscono il bilancio pubblico, oltre che dal gettito atteso dalla lotta all'evasione fiscale. L'ottavo giorno. E dopo aver parlato molto della politica di casa nostra, adesso cerchiamo di fare un po' il punto sul vertice del clima che è in corso a Copenaghen e che andrà avanti ancora per una settimana, quindi siamo più o meno a metà dell'opera. Ci sono tantissime presenze, quasi 200 nazioni rappresentate nella capitale danese, per un summit che appunto oggi è arrivato praticamente soltanto a metà del suo tragitto. Tanti gli invitati un po' da tutto il mondo, c'è anche il nostro Marco Magrini, nostro perché è l'inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Marco Magrini, esperto di clima e di ambiente, segue queste complicate, controverse tematiche da tantissimo tempo. Marco, tu appunto ne hai visti poi molti di vertici del genere e sicuramente avrai toccato con mano quelle che sono di solito le grandi distanze tra i proclami della vigilia e poi i risultati concreti e piuttosto pochi alla fine. A tuo giudizio, se puoi anche prevedere quello che succederà nell'arco di una settimana, questo vertice di Copenaghen ce lo ricorderemo più di altri? Beh, immagino proprio di sì. Ora, la differenza fra questo vertice e tutti gli altri 5 o 6 che ho seguito negli anni passati, perché le Nazioni Unite fanno questi summit una volta l'anno da quando è stato firmato il protocollo di Kyoto, la più grande differenza che vedo fra Copenaghen e tutti gli altri è che è cambiata l'era politica, nel senso non c'è più George Bush alla Casa Bianca, c'è Barack Obama, e questo fa una grande differenza, perché quello che è stato a lungo il più grande inquinatore del mondo, gli Stati Uniti, adesso sono i secondi dopo la Cina. Il fatto che la Casa Bianca si rifiutasse addirittura di negoziare su qualsiasi cosa ovviamente ha rovinato tutti i vertici del passato. Già si sapeva da Bali 2 anni fa che questa era la volta buona, proprio perché alla Casa Bianca non ci sarebbe più stato George Bush. La posizione americana è sostanzialmente cambiata, e questo sicuramente è un passaggio a favore di un successo ancora incerto di questo vertice. Allora, tra poco entriamo nel dettaglio proprio della posizione americana. Obama sarà presente a Copenaghen la settimana prossima. Adesso vorrei far ascoltare a te, Marco, ma anche naturalmente ai nostri ascoltatori, un servizio di Gigi Donelli, che è l'inviato di Radio 24 a Copenaghen e che tocca quello che a mio avviso è uno dei punti sensibili di questo summit, perché in molti, soprattutto prima dell'apertura dei lavori, erano convinti che l'Unione Europea sarebbe stata un po' schiacciata tra i due poli opposti, e non parlo solo dal punto di vista geografico, cioè Stati Uniti e Cina, di questo vertice di Copenaghen. E il servizio proprio di Gigi Donelli, in onda giovedì mattina, parla proprio delle schermaglie tra Cina e Stati Uniti. Entro il 2020 la Cina sarà responsabile del 28% di tutta la CO2 immessa in atmosfera, e nel 2030, se prosegue sul percorso attuale, produrrà l'80% di gas serra in più degli Stati Uniti. Todd Stern, inviato speciale per il clima del presidente Obama, replica all'affondo di Pechino, che ha chiesto ai paesi ricchi di alzare il proprio impegno sui tagli alle emissioni. Secondo Pechino, Stati Uniti ed Europa devono alzare l'asticella dei tagli al 30% entro il 2020, ma gli Stati Uniti non ci stanno e fanno i conti in tasca alla Cina, lanciatissima verso la leadership dell'inquinamento. By China. I mean, right now China is the biggest emitter in the world. Pechino, che immette 6 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno in atmosfera, da parte sua dice solo che valuterà l'obiettivo globale di dimezzare le emissioni entro il 2050. Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore a Copenaghen, in collegamento con noi. Detto che ho l'impressione che di questo vertice si parli comunque più che in passato, proprio perché Obama ci sarà, a tuo giudizio Cina e Stati Uniti sono davvero i grandi protagonisti e, se vuoi, anche antagonisti di questo summit? Beh sì, non fosse altro perché, come dicevo prima, sono rispettivamente l'inquinatore numero 1 e numero 2 del mondo, i più grandi emettitori di anidride carbonica, e quindi inevitabilmente senza un loro impegno consistente non c'è assolutamente possibilità di arrivare a un accordo. Devo dire che la Cina finora si è dimostrata molto più coraggiosa degli Stati Uniti, almeno negli ultimi 2 anni, quanto a investimenti e alla scommessa sull'economia verde. Sicuramente Obama ha messo sul piatto 160 miliardi di dollari in 10 anni per questo obiettivo, che non sono noccioline, però ovviamente sono gli Stati Uniti che devono fare la prima mossa e offrire di più. Ora vediamo che cosa dirà Obama in occasione di questo vertice a Copenaghen, ma assolutamente il punto cruciale è arrivare a una legge in America che finora non è mai esistita. C'è stato proprio nelle ultime ore un accordo bipartisan con l'appoggio di un senatore repubblicano, che lascia preludere alla possibilità che all'inizio dell'anno prossimo gli Stati Uniti effettivamente approvino il Climate Change Bill voluto da Barack Obama. Se questo succederà per davvero, potrebbe cambiare le cose, ma questo non sposta nulla al vertice di Copenaghen che si chiude, come dicevi tu prima, fra una settimana. E comunque mi sembra di capire che il giudizio poi finale su Copenaghen sarà decisamente influenzato da quello appunto che dirà e di concreto soprattutto farà capire di voler fare Barack Obama. Intanto invece ad inizio del vertice, quasi a voler anche creare un impatto emotivo sui lavori di Copenaghen, sono stati presentati dei dati sul clima davvero inquietanti, perché di fatto dagli esperti è stato detto che l'ultimo decennio, quello che stiamo per chiudere in questi giorni, in queste settimane, è stato il più caldo della storia, comunque il più caldo degli ultimi due secoli, cioè da quando esistono le rivelazioni sul clima. Al di là del fatto che dentro questi dati naturalmente si inserisce poi l'eterna disfida tra catastrofisti e negazionisti in termini di clima, insomma tra chi dice che il riscaldamento globale è un problema colossale che ci porta alla rovina e chi invece tende a negare ogni problema. Tu personalmente, da esperto anche del settore, che idea ti sei fatto di questo discorso, su questi numeri che arrivano a volte un po' impazziti sui tavoli anche dei grandi? L'idea che mi sono fatto è semplicemente quella che mi fido della comunità scientifica, perché non c'è dubbio che ci sia un consenso nella comunità scientifica sugli effetti dell'anidride carbonica e degli altri gas serra nell'atmosfera. Quello che ci è stato spiegato, che accennavi tu, che questo è stato il decennio più caldo, anche la verità è che però è stato il decennio più caldo del precedente, che era più caldo del precedente, che era più caldo del precedente. E la comunità scientifica presente in forze qui già dice che il prossimo decennio sarà ancora più caldo di questo. Ma ecco, secondo me tutta questa intera questione su chi ha ragione o chi ha torto non può essere vista semplicemente con gli occhi della contemporaneità, cioè voglio dire che temperatura ha fatto quest'anno o l'anno scorso. Tutta questa questione va inquadrata in un lungo termine nel futuro e la vera domanda non è quale temperatura media del pianeta c'è durante la nostra vita, ma durante quella dei nostri figli, nipoti, bisnipoti e così via. E qui sta il serio problema, che è un problema indiscutibile, perché i nostri nipoti avranno dei problemi con il clima. Marco, mi sembra chiarissima la tua posizione. Tra l'altro ricordo, per dovere di cronaca, che prima del vertice c'era stato quello che è stato ribattezzato lo scandalo del Climategate, cioè sul fatto che giravano delle mail tra gli ambientalisti più convinti che cercavano un po' di nascondere dei dati, insomma che sminuivano un po' l'impatto del riscaldamento globale, però naturalmente il discorso è complicatissimo. Marco Magrini, in 10 secondi, oggi e tra pochissimo parte la manifestazione dei No Global, quindi di quel popolo di Seattle che da 10 anni presenzia tutti i vertici dei grandi del mondo. Sei pronto? Speri che non succeda, immagino, nulla di significativo dal punto di vista giornalistico. Ovviamente sono d'accordo con te, ho parlato con qualche poliziotto per la strada, perché ormai sono giorni che Copenaghen c'è un grande spiegamento di forze, sono venuti anche i mezzi e uomini dai paesi vicini come la Svezia. Ovviamente tutti si aspettano una manifestazione pacifica, però si parla di 50-60 mila persone. E nei giorni scorsi è già stato trovato qualcuno con bombe di vernice o bastoni e cose del genere, per cui un certo grado di preoccupazione c'è, stiamo a vedere che cosa succede. Insomma, speriamo bene. Intanto ringrazio Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore a Copenaghen. Probabilmente tra i bersagli degli slogan della manifestazione di oggi in Danimarca ci sarà anche Obama, che invece giovedì ha ritirato il premio Nobel della pace a Oslo, forse per arginare un po' anche il paradosso di un premio ottenuto proprio mentre sta per partire la massiccia controffensiva americana in Afghanistan. Obama ha parlato, non a caso, molto di guerra. Sentiamo Cristina Balotelli. Forse la questione più profonda che riguarda il conferimento di questo premio è il fatto che io sono il comandante in capo militare degli Stati Uniti nel mezzo di due guerre. Così Barack Obama esordisce nel suo discorso a Oslo. Siamo in guerra e io sono responsabile del dispiegamento di migliaia di giovani americani che vanno a combattere. Affrontando di petto il discorso della guerra e delle sue responsabilità in quanto capo di Stato, il presidente americano prende atto delle perplessità perplessità avanzate da più parti dopo l'annuncio del Nobel assegnato a lui, un presidente che non è ancora al termine del suo mandato, che sta portando avanti una guerra in Afghanistan e indirettamente anche nelle zone tribali del Pakistan e che raccoglie l'eredità di quella in Iraq. Un Nobel che ha fatto discutere, che dà per acquisito ciò che ancora deve avvenire. Obama rivendica l'impegno per i diritti umani e contro la proliferazione delle armi nucleari. Però si trova sulle spalle tutto il peso di coloro che nel mondo tanto si aspettano dalla sua presidenza. Se dovesse scivolare, qualcuno potrebbe non perdonarglielo. Persino la Palin ha apprezzato il discorso di Obama ad Oslo. Intanto Obama martedì ha fatto un altro discorso, credo più interessante, più importante per gli americani, cioè ha lanciato le nuove linee guida sull'economia. Tra le altre iniziative segnalo gli incentivi fiscali alle piccole imprese e una serie di progetti imponenti sulle infrastrutture, tutto questo naturalmente per creare nuovi posti di lavoro, perché il vero problema dell'economia americana è sicuramente l'alto, altissimo tasso di disoccupazione. Tornando invece al clima e a Copenaghen, pochi minuti fa abbiamo parlato con Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore, segnalo che l'Unione Europea ieri si è impegnata per 7,2 miliardi di aiuti immediati dal 2010, quindi tra pochissimi mesi, fino al 2012 per i paesi più sensibili, più vulnerabili sul fronte del clima. Questa sicuramente è una buona notizia. Poi c'è un'altra, diciamo così, piuttosto curiosa, perché a quanto pare a Copenaghen, nella capitale danese, si sono riversate moltissime prostitute che arrivano dai vicini paesi dell'est europeo e per protestare contro le iniziative piuttosto decise delle autorità danesi che hanno ostacolato in qualche modo la loro presenza annunciata appunto a Copenaghen, hanno offerto gratuitamente le loro prestazioni ai delegati, ma a quanto pare nessuno o pochi perlomeno si sono avvalsi di questo privilegio, di questa cosa, insomma. L'ottavo giorno. Uno degli argomenti caldi della settimana è sicuramente la sentenza di Perugia sull'omicidio di Meredith Kercher, sentenza arrivata nella tardissima serata di venerdì 4 dicembre, che lo ricordo ha inflitto 26 anni ad Amanda Knox e 25 a Raffaele Sollecito per omicidio. Qualcuno ha tentato poi di trasformare la sentenza anche in un caso diplomatico tra Italia e Stati Uniti, dal momento che Amanda Knox è di Seattle, quindi è cittadina americana. Da Perugia sentiamo su questo, ma anche su altro, il servizio di lunedì mattina firmato da Daniele Morini. C'è sempre Amanda Knox al centro della vicenda giudiziaria che è seguita all'omicidio di Meredith Kercher. Ora la giovane di Seattle sembra aver vinto un concorso letterario indetto tra i detenuti del carcere di Perugia, con un racconto molto simile a quanto accaduto forse nella casa per studenti di Via della Pergola oltre 2 anni fa. La condanna di Amanda a 26 anni di reclusione per l'omicidio della sua coinquilina inglese rischia di diventare anche un caso diplomatico. La senatrice democratica americana Maria Cantwell infatti ha parlato di una condanna senza prove evidenti. Nessuna preoccupazione in proposito è stata espressa però dal segretario di Stato USA Hillary Clinton, che si è dichiarata disponibile ad affrontare l'argomento se necessario. Intanto ieri, con un volo diretto da Perugia a Londra, la famiglia Kercher al completo ha lasciato il capoluogo umbro. Il padre di Amanda, Kurt Knox, invece sembra intenzionato a rimanere in Italia per stare vicino alla figlia. Si sarebbe licenziato dal lavoro e starebbe cercando un'occupazione nel nostro paese. Inutile sottolineare la tifoseria che c'è stata nella stampa estera, tifoseria non proprio esaltante. Gli inglesi, in quanto Meredith Kercher è appunto inglese, era inglese, hanno applaudito la sentenza, mentre alcuni media americani, non tutti però va precisato, l'hanno criticata. Non mi sembra peraltro che per ora la Clinton abbia invece fatto cose clamorose, quindi non c'è per ora nessun caso diplomatico tra Italia e Stati Uniti, anche se ieri, intervistato dal Corriere della Sera, Joseph Di Benedetto, che è un avvocato piuttosto famoso negli Stati Uniti, è stato anche difensore di personaggi eccellenti come il boss mafioso Peter Gotti, ha fatto capire che Hillary segretamente avrebbe già ordinato un'inchiesta al Dipartimento di Stato. Vedremo, ma insomma, da questo punto di vista non mi aspetto incredibili novità. Invece ora dedichiamo qualche minuto per fare un po' un bilancio della settimana del calcio italiano, che è cominciata sabato scorso con il derby d'Italia tra Juve e Inter, vittoria 2-1 per i bianconeri al termine di una partita piuttosto bruttina, direi, e piuttosto nervosa. Poi ancora Juve e Inter sono state protagoniste del turno di Champions League, l'ultimo di questa prima fase, accanto naturalmente a Milan e Fiorentina. Tutte le italiane alla fine hanno passato il turno, sono state promosse agli ottavi di finale, la Fiorentina addirittura prima nel suo girone, tranne la Juventus che martedì è stata travolta in casa dal Bayern Monaco per 4-1. La più attesa in questi due giorni di calcio internazionale era l'Inter, che si giocava la qualificazione in casa a San Siro con i russi del Rubin Kazan. Ecco allora il clima in casa Juve e in casa Inter nei servizi andati in onda nel GR Sport di giovedì di Dario Ricci e Giovanni Capuano. Mezz'ora di processo alla squadra sul campo di Vinovo. Ciro Ferrara ha tenuto il rapporto ai suoi dopo la disfatta contro il Bayern Monaco. I tifosi hanno invece disertato il campo di allenamento. Nessuna contestazione, solo in pochi a chiedere autografi. Al campo anche il DS Alessio Secco, ma il presidente Blanc e John Elkann non si sono visti. Non c'è un solo colpevole, lo siamo tutti, spiega Capitan Del Piero, ma i numeri inchiodano soprattutto Ferrara. In campionato la sua Juve ha gli stessi punti, 30 di quelli di Ranieri, ma il sogno Champions è già sfumato. E sabato c'è l'insidiosa trasferta di Bari. Gigi Buffon stringe i denti e si opererà al menisco infortunato solo lunedì. Per 29 minuti ieri sera l'Inter è stata virtualmente eliminata, per altri 9 ha addirittura accarezzato il sogno di chiudere il girone in testa. Alla fine è andata come da pronostico, nerazzurri secondi e qualificati grazie al 2-0 al Rubin Kazan. Passaporto timbrato insieme al Barcellona, corsaro a Kiev dopo aver sofferto, una sofferenza condivisa anche dalla squadra di Mourinho, che è piaciuta davvero solo dopo il raddoppio di Balotelli, che ha tolto dalla testa e dalle gambe la paura di un flop clamoroso. 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, quella umiliante del Camp Nou, il bilancio del girone, una sconfitta che ora agita i sonni nerazzurri, perché nell'urna degli ottavi sarà più facile pescare una grande come Manchester, Chelsea, Arsenal o Real Madrid, piuttosto che un'avversaria abbordabile come Bordeaux o Siviglia. Negli ultimi 2 anni, in 4 partite contro Manchester e Barcellona, l'Inter non è riuscita a segnare nemmeno un gol, 1-0, su cui riflettere da qui a febbraio. Chiudiamo questa puntata dell'ottavo giorno con un appuntamento artistico, ma in fondo anche mondano, imperdibile, ovvero la tradizionale prima della Scala il 7 dicembre, la sera di Sant'Ambrogio a Milano. Come sempre c'è chi ha apprezzato e chi invece ha sollevato molte critiche. Sentiamo Marta Cagnola. Sobrietà in tempi di crisi. Pochi lustrini e poca mondanità, ma il desiderio di festeggiare una grande città e un grande teatro. Lo ha detto subito il sindaco di Milano, Letizia Moratti. Le serate di festa servono anche a far volare l'economia, quindi sobrietà sì, ma anche festa. Fuori dal teatro le proteste. Davanti al teatro il presidio dei lavoratori dello spettacolo, qualche tensione con i rappresentanti dei COBAS tenuti molto lontani dalla piazza e soprattutto un minuto di silenzio prima di iniziare l'opera. Il pubblico, gli immancabili come Marta Marzotto. Ti adoro, adoro, una cosa così non me la posso perdere. I melomani veri come Francesco Saverio Borrelli. Ha una bella voce da Carlo, ma io sono contrario a queste messe in scena che ingombrano eccessivamente. La curiosa presenza di Dan Brown. Sorpreso dalla modernità dell'opera e dalla sua violenza, più che un americano sembrava un marziano alla Scala. Un teatro che alla fine è riuscito nell'impresa di una prima in giorni difficilissimi, come ha dichiarato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. È stata una conferma di che cosa straordinaria sia questo teatro e anche come la Scala sia capace di esprimere nuovi magnifici talenti. Ed ora sulla prima della Scala sentiamo anche il commento di Armando Torno. Con il cuore si può indubbiamente applaudire allo spettacolo, alla serata, a tutto quello che c'è stato, ma anche a un pubblico contento che, diciamo, ha castigato leggermente la regista, ma per il resto è stato particolarmente contento per, ad esempio, il cast dei cantanti e per l'insieme. Da parte mia, devo dire a Don José, cioè a Jonas Kaufmann, il tenore, che e aveva la voce un po' golata, bisogna sistemare questa voce che tende al baritono diversamente. Devo dire poi alla Carmen che ha una voce straordinaria, ma deve ancora diventare Carmen. E devo aggiungere che invece vanno tutti i plausi a Escamillo, Erwin Schroth. Non condanno completamente Emma Dante, ha immaginato una Carmen che potesse estendersi a tutto il sud possibile e quindi ha trovato i colori dentro il nero di una psiche, di un'anima, di uno spirito. Ha cercato di salvare plasticamente quest'opera che effettivamente non è di facile regia. Barenboim, direzione metallica. Non c'è stato quel colpo d'ala. L'aria della Baniera, ad esempio, non è stata perfetta come dovrebbe. Al di là di tutto, dobbiamo dire, una buona direzione, uno spettacolo degno della prima. I critici musicali poi ovviamente hanno sempre le loro pulci da fare, ma questa sera è una festa per il pubblico, quindi ci auguriamo un'altra Carmen così, magari con qualche variante e forse con qualche colore in più. È tutto anche per oggi, ottavo giorno è radio24.it, è la nostra mail. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, vi rinnovo l'appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, sempre su Radio 24.